La storia e la memoria di Dino Pesole e Alessandra Scaglioni. Buona serata e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la storia e la memoria. Nella prima parte di questa puntata, Dino Pesole dedica il suo approfondimento alle recenti decisioni del Consiglio europeo dei ministri della giustizia in tema di razzismo e negazionismo. Ospite ai nostri microfoni Luigi Caiani, docente di storia moderna all'Università La Sapienza di Roma. Nella seconda parte vi proponiamo, in collaborazione con History Channel, un radiodocumentario sull'ultimo Natale della Seconda Guerra Mondiale. Ma ora la parola a Dino Pesole. Il Consiglio europeo dei ministri della giustizia, riunito a Bruxelles il 27 e 28 novembre scorsi, ha approvato la decisione quadro per combattere il razzismo e la xenofobia. Dopo 7 anni di tormentati negoziati, il testo impegna tutti i paesi europei a contemplare entro 2 anni nei propri ordinamenti pene massime di detenzione che possono arrivare fino a 3 anni e non possono essere inferiori a 1 anno per i reati di incitamento pubblico alla violenza o all'odio razziale contro un gruppo definito per razza, colore, religione, origine nazionale o etnica. Le stesse pene dovranno essere previste per l'apologia pubblica, la negazione o la banalizzazione grossolana di crimini di genocidio contro l'umanità e di guerra, come definiti dagli statuti della Corte Penale Internazionale e nella Carta del Tribunale di Norimberga. Riferimento che quindi include l'apologia e la negazione dell'Olocausto, sebbene la parola non figuri espressamente nel testo, ma che si intende anche a un numero indefinito di eventi storici che potrebbero essere classificati crimini contro l'umanità. Negli ultimi 2 anni questa decisione quadro ha sollevato vivaci proteste tra gli storici di tutto il mondo, anche in Italia, lo ricordiamo, lo scorso anno, quando il ministro della giustizia di allora, Mastella, propose un disegno di legge sul negazionismo, collegato appunto al processo di approvazione di questa decisione quadro, ci fu un acceso dibattito tra gli storici che culminò in un appello firmato da oltre 200 studiosi. Ne parliamo questa sera in studio con il professor Luigi Caiani, docente di storia moderna alla Sapienza di Roma. Buonasera e grazie, professor Caiani. Buonasera. Ascoltiamo insieme il passaggio centrale dell'appello. Come storici e come cittadini, siamo sinceramente preoccupati che si cerchi di affrontare e risolvere un problema culturale e sociale certamente rilevante, il negazionismo e il suo possibile diffondersi, soprattutto tra i giovani, attraverso la pratica giudiziaria e la minaccia di reclusione e condanna. Proprio negli ultimi tempi, il negazionismo è stato troppo spesso al centro dell'attenzione dei media, moltiplicandone inevitabilmente e in modo controproducente l'eco. Sostituire a una necessaria battaglia culturale, a una pratica educativa e alla tensione morale necessarie per far diventare coscienza comune e consapevolezza etica introiettata, la verità storica della Shoah, una soluzione basata sulla minaccia della legge, ci sembra particolarmente pericoloso per diversi ordini di motivi. Si offre ai negazionisti, come già avvenuto, la possibilità di ergersi a difensori della libertà d'espressione, le cui posizioni ci si rifiuterebbe di contestare e smontare, sanzionandole penalmente. Si stabilisce una verità di Stato in fatto di passato storico che rischia di delegittimare quella stessa verità storica invece di ottenere il risultato opposto sperato. Ogni verità imposta dall'autorità statale, l'antifascismo della DDR, il socialismo dei regimi comunisti, il negazionismo del genocidio armeno in Turchia, l'inesistenza di piazza Tiananmen in Cina, non può che minare la fiducia nel libero confronto di posizioni e nella libera ricerca storiografica e intellettuale. Professor Caiani, perché questa mobilitazione degli storici contro la decisione quadro adottata dall'Unione Europea? Perché di fatto questa decisione quadro mette in difficoltà o addirittura impedisce la discussione non sui fatti storici, ma sulla loro definizione come crimini di guerra, genocidio oppure altre forme di reato. Per capire bene questo provvedimento bisogna osservarne le varie parti. La prima parte riguarda la lotta contro il razzismo e la xenofobia, una cosa sulla quale sono tutti quanti d'accordo e che è prevista dalla legislazione di tutti gli Stati europei. Una seconda parte riguarda un particolare di questa lotta contro il razzismo e la xenofobia che è la punizione legale della negazione dell'esistenza della Shoah. Il movimento che ha portato alla penalizzazione di questa negazione è cominciato grossomodo all'inizio degli anni 90 e si è affermato in vari paesi europei come la Francia, il Belgio, la Germania e l'Austria. Ma è un provvedimento molto controverso, abbiamo visto appunto dalla dichiarazione degli storici italiani che molti non sono d'accordo. Un anno fa il Tribunale Costituzionale spagnolo ha dichiarato parzialmente incostituzionale la norma appunto del codice penale spagnolo che puniva la negazione dell'Olocausto. E si potrebbe aggiungere che una norma di questo genere, anche se sotto un certo punto di vista, dal punto di vista dello storico, assolutamente incontestabile, proprio perché il negazionismo non ha nulla a che vedere con la ricerca storica, così come il creazionismo non ha nulla a che vedere, tanto per fare un paragone, con la ricerca in biologia. Però comunque questo provvedimento è una sottospecie del più generale provvedimento che punisce il razzismo e la xenofobia, quindi in qualche misura è abbastanza superfluo. Comunque, ancora qui, diciamo, non siamo nel settore che riguarda gli storici, possiamo discuterne come cittadini, ma come specialisti di storia no. Il problema nasce con la terza parte di questa decisione quadro europea, perché si è passati dal colpire la negazione di un fatto storico al colpire le differenti interpretazioni di alcuni fatti storici che non coincidono con una interpretazione ufficiale. Faccio un caso, per esempio, quello del genocidio armeno. Quasi tutti gli storici riconoscono che è stato un genocidio, cioè che, dal punto di vista del diritto internazionale, è stato programmato dall'alto per sterminare un intero gruppo etnico. Qualche storico, anche di rilievo, come Bernard Lewis o Günther Levy, pensa che invece non ci sono le prove di questa intenzionalità. Ma questo è assolutamente, diciamo, certo, che si discute fra gli storici. Resta nell'ambito della discussione tra storici. A questo punto però, se un Parlamento, come è successo nel caso francese, stabilisce che invece va definito come genocidio, è proprio quella definizione che non potrà essere più messa in discussione. Questo riguarda una quantità, fra l'altro, sterminata di casi. Per esempio in Francia c'è una proposta di legge per far dichiarare la guerra di Vandea durante la rivoluzione come genocidio. Il giorno che passasse, se passasse un'idea di questo genere, nessuno storico della rivoluzione francese potrebbe più parlarne se non dicendo che è stato un genocidio. C'è un filosofo inglese, Anthony Grayling, il quale ha scritto un libro nel quale considera crimini di guerra e bombardamenti alleati sulle città italiane, giapponesi e tedesche. Anche lì è una questione discutibile, ma se un tribunale desse ragione a qualcuno che fa riferimento al testo di Grayling, allora tutti quanti dovremmo decidere, e non solo noi storici, ma anche i giornalisti, gli insegnanti e così via, dovrebbero dire che si è trattato di un crimine di guerra. Quindi questa è una specie veramente di controllo sulle opinioni, che è il risultato appunto di questo straordinario scivolamento concettuale che ha portato a una situazione assolutamente caotica. Ecco, questo che sta dicendo lei, professor Chiani, ci rinvia anche a un'accesa discussione che c'è stata in Francia qualche anno fa. Ricordiamo il manifesto La Liberté pour l'Estuaire, in un passaggio di un appello lanciato il 12 dicembre del 2005 da un nutrito gruppo di storici francesi. Si afferma espressamente che in uno Stato libero non spetta né al Parlamento né all'autorità giudiziaria stabilire la verità storica. La storia non è una religione. Lo storico non accetta alcun dogma, non rispetta alcun divieto, non conosce tabù. La storia non è la morale. Lo storico non ha il compito di esaltare o condannare. La storia non è la schiava dell'attualità. Lo storico non applica agli eventi del passato schemi ideologici tratti dalla realtà contemporanea e non utilizza negli avvenimenti di altri tempi la sensibilità di oggi. Quella adottata dall'Unione Europea è dunque una decisione quadro, professor Chiani. Ora, cosa dobbiamo attenderci in Italia per effetto dell'approvazione di questo testo? Dunque, questa decisione quadro dovrebbe essere trasformata in legge nei vari Stati europei nei prossimi 2 anni. La cosa mi sembra abbastanza complessa, questa è anche l'opinione di alcuni giuristi con i quali ho parlato, non soltanto per la mobilitazione che noi vediamo fra gli storici. In Francia la cosa è stata particolarmente forte proprio perché la Francia è stata lo Stato che per primo si è mosso su questa strada, che è andato più avanti su questa strada, diciamo, del controllo dell'interpretazione della storia e che fra l'altro aveva proposto questa decisione quadro all'inizio a livello europeo. Però a parte, diciamo, la mobilitazione dell'opinione pubblica intorno agli storici, ai giornalisti, agli insegnanti di storia, che spero che si allarghi, ci sono anche da considerare una serie di problemi tecnici che mi fanno pensare che questa decisione quadro creerà un caos. Perché, per esempio, la Francia stessa, la Germania, i Paesi Bassi, nel sottoscrivere questa decisione quadro hanno fatto alcune riserve. La Germania, per esempio, ha affermato che punirà questi comportamenti solo nel caso che diventassero una minaccia diretta per l'ordine pubblico. La Francia vuole che queste definizioni di genocidio o crimine contro l'umanità siano pronunciate da una corte internazionale riconosciuta da tutti gli stati membri. Abbiamo visto che in Spagna invece una cosa di questo genere va contro l'interpretazione del Tribunale Costituzionale. Quindi se ne potrebbe fare nulla a questo punto? È possibile? No, non credo che non si farà nulla, perché molti stati invece utilizzeranno questo strumento per far passare alcune loro linee politiche. È il caso per esempio degli stati dell'Europa orientale, i quali invece, l'abbiamo visto per esempio nelle riserve che ha posto la Lettonia, i quali invece vogliono utilizzare questo strumento per condannare, con tutte le conseguenze anche di riparazione che ne conseguirebbero, i crimini commessi durante il periodo staliniano. Quindi questa decisione quadro sul piano tecnico-giuridico rischia di creare una situazione caotica e naturalmente quando c'è il caos a livello giuridico ci sono gli abusi. Grazie professor Cajani. Grazie a voi. La storia e la memoria. Il Natale del 1944 è il sesto Natale di guerra per molti europei. La guerra sta volgendo al termine, ma nella maggior parte dei fronti si combattono ancora battaglie sanguinose e la Wehrmacht tedesca si rifiuta di accettare la sconfitta nonostante la situazione disperata. Nel radiodocumentario che vi proponiamo questa sera ricostruiamo alcuni episodi più o meno drammatici che si sono svolti tra il 24 e 25 dicembre 1944. Incominciamo da quello che successe nelle Ardenne, per poi spostarci nella Pomerania e infine nel lager di Flossenbürg. Ardenne, regione del Belgio vicina al confine tedesco. Nel dicembre 1944 l'avanzata alleata si arresta qui. La maggior parte dei soldati alleati è costretta a trascorrere le vacanze al fronte. Ma quest'anno sono pochi i motivi per festeggiare. La regione di confine tra Belgio e Lussemburgo è terreno di battaglia da settimane. I civili vagano disperatamente tra un fronte e l'altro. Il mattino del 24 dicembre, alcune unità americane circondano la cittadina di Bougainville. L'unità di Josef Schröder rimane isolata. Ci ordinarono di ripararci in una delle case e di aspettare il tardo pomeriggio e poi tentare lo sfondamento delle linee americane. Circondati, i tedeschi rimangono presto a corto di munizioni. Possono soltanto sperare di non essere scoperti. Le forze della 26esima divisione di fanteria americana entrano nella città, dove si nascondono le ultime sacche di resistenza tedesche. Sentimmo dei rumori che venivano dall'esterno. Poco dopo capimmo che qualcuno era entrato in casa. Corsi per le scale e gridai: «Non sparate!» Qualcuno in cima alle scale rispose: «Mani in alto!» Così sollevai le braccia. Io fui il primo a salire. Non posso esprimere cosa provai in quei momenti. Non sapevo se ci avrebbero sparato o meno. Non potevo nemmeno guardarli perché ci misero con la faccia contro il muro. Ma li sentivamo sparare intorno alla casa con i fucili. Josef Schröder sembra condannato a morire davanti a questo muro. Ma gli eventi prendono una svolta inaspettata. C'erano dei rumori dall'esterno. Poi sentii una voce che gridava in inglese: «Che state facendo lì?» Capii soltanto queste parole: «Che state facendo lì?» Qualcuno gridava ai soldati e li fermò prima che sparasse. Un ufficiale americano salva Schröder dalla fucilazione. Ha bisogno di un interprete. Schröder viene portato in un'altra cantina da una donna che ha bisogno di aiuto. La donna parlava solo tedesco e l'ufficiale americano non capiva una parola di quello che diceva. Mi disse di tradurre per lui, cosa che feci nel mio inglese scolastico. Il neonato continuava a piangere disperatamente. Lei mi disse: non ho latte, non posso allattare il mio bambino. Insieme a due soldati nemici, Schröder va in cerca di una mucca da mungere tra le rovine di quella che un tempo era una città. Mentre eravamo lì intorno al bambino, letteralmente in ginocchio, e porgevamo il biberon pieno di latte alla donna, non sentii di trovarmi insieme a dei nemici, ma solo con qualcuno che cercava di salvare una vita, proprio come me. Per me la guerra era finita. Josef Schröder e il neonato di Bigonville si salvano la vita reciprocamente. Altrove, il Natale al fronte sembra un'eco lontana, come in Pomerania, sul Mar Baltico. Fino a questo momento la cittadina costiera di Koslin è stata risparmiata dalla guerra. Le prime avvisaglie dell'imminente tragedia sono gli sfollati in fuga dalle martoriate province orientali del Reich. Sentiamo la testimonianza di un abitante di Koslin, Ingeborg Butting. Erano i primi momenti spiacevoli e dolorosi che vivevamo dall'inizio della guerra. Stavamo ad ascoltare per ore le storie degli sfollati. Mia madre e il nostro padrone di casa preparavano della minestra e davano loro da mangiare. Poi venimmo in contatto con i feriti perché mia madre lavorava nell'ospedale da campo. Andavamo spesso lì, soprattutto a Natale, per tirarli su di morale. Cantavamo o davamo loro dei piccoli doni per portare un po' di gioia. Anche il padre di Ingeborg è in guerra, ma a casa i bambini aspettano il Natale, come ogni anno, con grande attesa. Mia madre suonava un campanellino, intonavamo un canto di Natale e poi ci era permesso entrare. I regali erano ancora tutti coperti. Lei ci raccontava una storia oppure, come nel Natale del 1944, ci leggeva una lettera di nostro padre. Ma le loro vacanze non sono illuminate dalla stella di Betlemme. Non celebrano la notte santa, ma la notte pagana della mistica nazista. Non c'era la tradizione cristiana. Per noi il Natale, la cosiddetta festa del solstizio, era il periodo dell'anno in cui finivano le tenebre e si salutava l'arrivo della nuova luce. Era una festa molto importante, soprattutto per mia madre, che era molto appassionata del folklore germanico e delle tradizioni dei nostri antenati. Era una festa dedicata al solstizio. Ci raccontavano che i nostri antenati, i popoli germanici, accendevano dei falò sulle vette delle montagne. Dicevano che era importantissimo mantenere in vita quella tradizione, perché il Reich voleva rompere con le tradizioni giudaico-cristiane. Vacanze di Natale in stile hitleriano, e i seguaci del Führer si adeguano. Anche il padre di Ingeborg, un devoto ufficiale dell'SS, ripete nelle sue lettere le formule del culto ufficiale. Coloro che hanno vissuto prima di noi celebravano il Natale come noi. Non abbiamo bisogno delle storie che provengono dalla terra degli ebrei per essere felici. I nostri figli sono molto più belli dei loro e Dio ha voluto donare soltanto ai tedeschi un grande Führer come Adolf Hitler. I miei genitori credevano ciecamente nella propaganda ideologica. Qualsiasi cosa terribile stesse per accadere, eravamo fermamente convinti che dopo la guerra Adolf Hitler avrebbe rimesso le cose a posto. Per noi bambini Hitler era un vero idolo. E il nazionalsocialismo dedica a Hitler anche la più cristiana delle festività. Gli ideologi del Reich sono consci dell'impatto emotivo del Natale e cercano di reinterpretarlo secondo i propri fini. L'albero di Natale venne adottato come simbolo di rinascita. Per i nazisti aveva un grande significato. Era come un figlio della luce. Intonavamo i canti di Natale rielaborandone i testi. Ad esempio, «O gioioso Natale» divenne «O tempo di gioia, portatore di un messaggio vitale». Brilla, o verde albero, nel tuo abito di luce. Nel Terzo Reich, il terrore hitleriano non si allenta nemmeno la vigilia di Natale, come nel Lager di Flossenbürg. Natale dietro il filo spinato. La promessa di pace in terra, qui, riecheggia nel vuoto. Migliaia di prigionieri di guerra sono stati costretti a marciare fin qui dai campi di concentramento dell'Est. A Flossenbürg sono internati ebrei, oppositori politici del regime, ed eroi silenziosi che hanno rischiato la vita per aiutare dei connazionali perseguitati. Uno di essi, Miloš Wolf, all'epoca ha 19 anni. La sua famiglia ha nascosto i vicini ebrei e li ha aiutati a sfuggire alla deportazione. Il Natale è un periodo speciale per tutti. Nei miei pensieri ricordavo sempre i miei familiari. Mia madre, internata nel lager di Ravensbrück. Mia nonna, che era a Terezin. E i miei fratelli piccoli, che erano stati arrestati dalla Gestapo. Il dicembre del 1944 non fa eccezione all'incessante routine di dolore. Jack Terry è l'unico membro della sua famiglia a sopravvivere all'olocausto. Quel Natale è uno dei ricordi più vividi impressi nella mia memoria. Era una giornata grigia, freddissima. Nel tardo pomeriggio dovevamo radunarci sul piazzale dell'appello. Doveva presentarsi tutto il campo. Erano già state issate le forche. Sei prigionieri hanno tentato la fuga. Vengono fatti sfilare davanti all'albero di Natale sul piazzale del campo. Mentre eravamo lì, dovevamo guardare le forche. Un membro delle SS marciava su e giù davanti alle file per vedere se qualcuno di noi mostrasse segni di emozione, se i nostri volti fossero tristi o se piangessimo. Così cercammo di mantenere un'espressione insensibile, come pietrificata, temendo di tradire le nostre emozioni di compassione. Alcuni prigionieri ricordano che le sentinelle intonavano dei canti natalizi, facendo ritorno dalla pubblica esecuzione. La storia e la memoria. Continua la nostra ricostruzione di alcuni fatti dell'ultimo Natale di guerra del secondo conflitto mondiale. Il Natale del 1944, un Natale che molti non potranno mai dimenticare. Le truppe di riserva alleate attendono sulla costa britannica di essere mandate in prima linea. Nel porto di Southampton, la mattina di Natale, i soldati della 66esima divisione di fanteria americana si imbarcano su un transatlantico, riconvertito a scopo bellico, per attraversare la Manica. Tra essi c'è il soldato Edwin Phillips, che ha appena compiuto 19 anni. Avevo nostalgia di casa, era la mia prima missione all'estero. Io provengo da una famiglia numerosa e mi mancavano i miei fratelli e le mie sorelle, perché per noi il Natale era sempre stato un momento speciale. Ma dovranno trascorrere tutti il Natale in missione. Non c'era niente di lussuoso sulla nave Leopoldville. Venimmo sistemati sulla prua della nave e le nostre amache vennero fissate al soffitto. Nella nave c'era un odore nauseante. Scendemmo sul ponte di coperta. Eravamo ammassati come sardine. C'erano circa 2.500 soldati e quella nave era per appena 600 persone. Negli anni 30, la Leopoldville, una lussuosa nave da crociera belga, era stata luogo di vacanza per i ricchi che facevano la spola tra Anversa e l'Africa. All'inizio della guerra, gli inglesi la riconvertono in mezzo per il trasporto truppe, mantenendo l'equipaggio belga. All'inizio la situazione è caotica, le unità si mischiano, le liste dei passeggeri sono incomplete il trasporto truppe è pericolosamente sovraccarico. Alle 9 del mattino di Natale, l'autorità portuale dà alla Leopoldville il mollate gli ormeggi. Lo Stato Maggiore americano insiste perché salpi con la marea del mattino. La scorta attende fuori dal porto. Sono 4 cacciatorpediniere inglesi al comando di John Pringle. Di norma il convoglio dovrebbe avere una copertura aerea per sventare attacchi degli U-boat tedeschi, ma quel giorno non viene assegnata. Il comandante Pringle fa procedere il convoglio su una rotta a zigzag per impedire che i sommergibili nemici intercettino il bersaglio. Una precauzione legittima che però raddoppia il tempo della traversata. Herbert Kistenmacher, imbarcato sul sottomarino U-Boat 486. Il cuoco aveva appena terminato di preparare i dolcetti natalizi per tutti noi. C'era anche la panna montata. A bordo si viveva piuttosto bene. Avevamo sempre dei cibi gustosi. Tutto era pronto per iniziare i festeggiamenti. Ma a quel punto avvistammo il convoglio e questo mise fine al nostro Natale. Nelle acque antistanti il porto di Cherbourg, l'U-Boat 486 attende silenzioso. L'ufficiale di vedetta suona la sirena d'allarme. Sono le 5:40 del pomeriggio. Il periscopio avvista un pennacchio di vapore al largo. Il timoniere ordinò all'equipaggio di prepararsi al combattimento e tutti corremmo ai nostri posti. A bordo del sommergibile, i duri mesi di addestramento danno i loro frutti. Il comandante dell'U-Boat 486, Gerhard Meyer, esegue la manovra per assumere la posizione di lancio, puntando i siluri contro la Leopoldville. Walter Brown, della 66esima divisione di fanteria USA. Alle 6 in punto, lo so perché guardai l'orologio, sentii un forte senso di nausea. Scesi dalla maca, presi l'elmetto nel caso dovessi vomitare e salii sul ponte. Appena uscii sul ponte, il siluro colpì la nave e uccise tutti. Io caddi svenuto. Con una falla aperta nel ponte di coperta, la corsa verso le scale diventa una lotta per la sopravvivenza. Pochi minuti dopo il disastro, uno dei cacciatorpediniere di scorta, l'HMS Bryant, lancia un SOS via radio. Ancora Walter Brown. La nostra nave non era in comunicazione diretta con Cherbourg. Erano necessarie delle frequenze speciali. Quindi dovettero contattare l'Inghilterra e informare il quartier generale che eravamo stati silurati. L'operazione di soccorso si trasforma nella tragica storia di un fallimento. Il quartier generale della Marina non trasmette l'SOS a Cherbourg, mentre il comandante Pringle, ignaro, lancia il cacciatorpediniere all'inseguimento dell'U-Boat. Ancora Herbert Kistenmacher. Dopo aver lanciato il siluro, riemergemmo a pelo d'acqua per sfuggire alla vista del nemico. In tal modo non avrebbero potuto individuare se si trattasse di un sommergibile o di una secca. Così riuscimmo a scampare alle bombe di profondità. Dopo 40 minuti, Brilliant torna sul luogo dell'attacco. Il comandante Pringle è sconvolto. La Leopoldville è inclinata su un fianco e non c'è traccia di soccorsi. I suoi battelli ripetono incessantemente il segnale di SOS verso la costa, ma nessuno sa se quei segnali vengono ricevuti dal porto di Cherbourg. Non ci sono sufficienti scialuppe di salvataggio. Ancora Walter Brown. L'equipaggio belga scappò via. Saltarono sulle scialuppe e presero il largo, lasciando gli uomini intrappolati nella nave al loro destino. Ancora nessun segnale di risposta da Cherbourg. Il comandante Pringle decide di fare un tentativo disperato. Nonostante il mare grosso, con una difficile manovra, affianca la Brilliant allo scafo della Leopoldville. Ancora Edwin Phillips. Iniziarono a soccorrere i soldati facendoli saltare da una nave all'altra. Molti di loro caddero e rimasero schiacciati tra le due navi. Un'ora dopo, l'operazione viene interrotta. La nave è piena. La Brilliant porta circa 700 superstiti nel porto di Cherbourg. Cala la notte sul luogo del siluramento. Sono trascorse più di 2 ore da quando la Leopoldville è stata colpita. La chiglia si inabissa lentamente. Gli uomini rimasti a bordo attendono la fine. Quando la Leopoldville comincia a inabissarsi più velocemente, per Ed Phillips e altri 1000 commilitoni inizia l'agonia disperata nell'acqua. Finalmente, 3 ore dopo essere stati colpiti dal siluro, una flottiglia composta da 50 lance, imbarcazioni da pesca e mezzi militari si dirige sulla scena del disastro, nel buio della notte. Steve Makitra della squadra di salvataggio. Fu orribile. Vedemmo la nave che si inabissava nel buio. Uomini che morivano nei modi più atroci. Alcuni si sparavano. Ma non è tutto. Il comandante di una scialuppa di salvataggio doveva farsi largo, ma nella manovra colpì alla cieca uomini e mezzi. Le scialuppe vennero scaraventate lontano dalle onde. Alcuni corpi rimasero sommersi sotto lo scafo. Altri morirono affogati. Altri rimasero stritolati tra le eliche delle scialuppe. Meno della metà dei soldati sopravvive alla tragedia. I fortunati vengono issati a bordo dai soccorritori, ma devono prima lottare contro i propri commilitoni. Quella notte Steve Makitra salva la vita a 8 soldati. Ma ciò che lo fa commuovere ancora non è il senso di sollievo che provò in quel momento. Alcuni di loro li avevo afferrati per le mani. Erano a pochi metri da me. Li guardavo fisso negli occhi. E all'improvviso un'onda li portò via. La presa mi sfuggì e non potei fare niente per riafferrarli. Alle 9 di sera la Leopoldville si inabissa completamente. Il suo relitto è ancora lì, a soli 36 metri dalla superficie. Le mancate comunicazioni e il ritardo nelle operazioni di soccorso trasformano l'ordinario attacco di un sommergibile in un disastro. Dopo 60 anni per i superstiti e i loro soccorritori, il Natale è ancora una ricorrenza dolorosa. Nell'Europa occidentale i civili sono già stati liberati dalla guerra e dalle persecuzioni. Anche nella capitale francese si celebra il primo Natale liberi dall'oppressore. Parigi sta rinascendo. Finita l'occupazione nazista, la vita ricomincia a fervere ovunque. La musica americana si diffonde per le strade insieme ai soldati dell'esercito di liberazione. Il re del nuovo swing ha promesso a Parigi che sarà lì per festeggiare il Natale. Zeppi Max, cantante. Per i francesi e soprattutto per i parigini, Glenn Miller simboleggiava la libertà che avevano appena ritrovato. Le note di In the Mood riecheggiavano ovunque. La musica di Miller ci conquistò. Glenn Miller e la sua Army Air Force Band sono ancora a distanza in Inghilterra. Il loro compito è intrattenere i soldati americani. Ma questo non soddisfa il maggiore Miller. Non gli basta risollevare da lontano il morale dei soldati. Nat Beck, trombettista. Glenn Miller aveva una gran voglia di suonare per le truppe che erano al fronte, non soltanto per gli equipaggi delle basi aeree di stanza in Inghilterra. Per questo voleva andare a Parigi, per essere più vicino ai soldati che ancora combattevano. Per lui era una missione di grande importanza. Poco prima di Natale, i preparativi sono quasi ultimati. La band raggiungerà Parigi in aereo. Miller parte per la stessa destinazione 3 giorni prima, a bordo di un monomotore, in condizioni climatiche pessime. Ancora Nat Beck. Quando arrivammo a Parigi, ci chiedemmo perché Glenn Miller non fosse lì ad aspettarci. Prima di tutto pensammo che, essendo uno che amava la vita, avesse fatto una scappatella per divertirsi un po'. Angosciati dall'incertezza, alcuni membri della band cercano distrazione nella Ville Lumière. A Parigi avevamo molto tempo libero e nessuno che controllasse quello che facevamo. Avevamo tempo per passeggiare per le strade, visitare i monumenti. Parigi in quel periodo era bellissima. Dopo 4 anni di oppressione, la città tornava a vivere. Era assolutamente fantastica. Ma presto il morale dei musicisti subisce un duro colpo. Un giorno ci convocarono nel salone dell'Hotel des Olympiades. Fu durante quella riunione che il manager della band ci informò della misteriosa scomparsa di Glenn Miller. Se ne erano perse le tracce poco dopo il decollo. Arriva Natale e le speranze di ritrovare Glenn Miller si affievoliscono. I giornali e le emittenti radiofoniche annunciano ufficialmente la sua scomparsa. Come da programma, la band suona la vigilia di Natale al Teatro dell'Olimpiano. Il concerto di Natale diventa un omaggio a Miller. Mai la speranza e la disperazione, la pace e la guerra, la gioia e il dolore sono stati più vicini tra loro, come in quel Natale del 1944. Prima di chiudere, vi segnaliamo che domani alle 15:10 History Channel trasmetterà un interessante documentario dal titolo Gli anni mancanti di Gesù, che ricostruisce come Gesù abbia vissuto tra i 12 e i 30 anni, anni che scompaiono negli scritti sacri. Un ringraziamento in redazione a Gloria Guerrera e Laura Marchesi. La storia e la memoria vi dà appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte.